Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, buonasera, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia e allora la cronaca, giornata altalenante, sali e scendi, montagne russe per i mercati finanziari, perché? Perché le borse sono andate molto male in mattinata, poi hanno recuperato dopo il dato americano sulla disoccupazione, che è una disoccupazione fortissima, ma in linea con le attese e con l'aria che tira, già un dato in linea, è manna che cade dal cielo. Ora però le borse hanno ripreso a andare male, non malissimo in Europa, meno 1,2 Parigi, meno 0,80 Francoforte, invariata Londra, peggio l'America adesso che fa un meno 1% sullo Standard & Poor's e uno 0,90 di calo sul Dow Jones. La cosa che obiettivamente ci lascia un po' perplessi è che Milano continua ad essere ampiamente la peggiore borsa europea e non capiamo a questo punto il perché, poi vedremo anche di parlarne a mercati chiusi, meno 4,6% l'S&P MIB, meno 3,80%, insomma Milano sta perdendo 3 punti in più almeno rispetto alle altre borse europee e qui poi si apre anche il giallo sul fondo di JP Morgan. Oggi su alcuni giornali avrete letto che JP Morgan starebbe offrendo un fondo strutturato in cui si va a scommettere un po' come con certi broker su quale paese verrà espulso per primo dalla cerchia dell'euro, dalla cerchia della sostenibilità, non tenendo in considerazione la Grecia e l'Irlanda, e il primo paese sarebbe stato l'Italia. In realtà JP Morgan oggi ha smentito e ha fatto anche un esposto alla Consob chiedendo di, e quindi l'autorità che vigila sulla borsa, chiedendo di capire chi ha messo in giro questa notizia, per cui che ritiene lesiva tra l'altro della propria immagine. Al di là di questo, altre notizie grosse non ne vediamo, ma Intesa San Paolo perde l'8,5% a 1,43 euro, il Banco Popolare perde 7,7 a 2,10 euro, Ubibanca perde 7,6, Generali quasi 7% di calo e si avvicina sotto la soglia di 10 euro è 10,3 euro per azione, Unicredito, tanto per non farsi mancare nulla, meno 6,5%, è scesa sotto gli 80 centesimi a 75 centesimi per azione, Eni meno 5% a 12,39 euro, Alleanza meno 4,80 e poi via così, Mediolanum meno 4,7, Monte dei Paschi meno 4,6, Fondiaria meno 4,4 come Enel e Unipol. Di positivo tra i titoli maggiori c'è l'Automatica che guadagna un 6,5%, Prismian più 2,5%, Snam anche oggi positiva più 1,1%, Tenaris più, mezzo punto percentuale di rialzo, come la Popolare di Milano e Luxottica. L'euro è a quota 1,26, leggero recupero, la sterlina è a 89,90 centesimi, ossia 90 pence, scusatemi, per un euro. Cercheremo di capire perché Milano vada così male. L'altra grossa notizia di oggi, della cronaca di questa giornata economico-finanziaria, riguarda la conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Le dichiarazioni le avete, immagino, già ascoltate nei nostri GR del Presidente del Consiglio Berlusconi e anche le precisazioni, in alcuni casi anche smentite, del Ministro Tremonti, che ha detto di non aver mai usato il termine catastrofe, di non essere mai stato così pessimista, di non aver mai detto che la crisi è così virulenta. Comune ai due interventi, sia del Presidente del Consiglio che del Ministro dell'Economia, la critica ai media e ai quotidiani, alcuni quotidiani, perché diciamo, amplificherebbero la crisi e enfatizzerebbero le notizie negative. E poi altre dichiarazioni sull'assegno ai disoccupati, il perché no, e poi il CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, oggi infatti ha sbloccato tanti soldi, perché sono oltre tutto insieme di opere, sono complessivamente 18 miliardi di euro, di cui poi vedremo, non tutti, sono 17,8 per la precisione, di cui ce n'è 1,2 miliardi per l'edilizia, per la scuola e le carceri, poi ponte per lo stretto 1,3 miliardi. Attenzione, di questi 17,8, di cui 16,6 miliardi per le infrastrutture vere e proprie, dal pubblico arriveranno solo 8 miliardi e mezzo, il resto dovrebbe essere in quello che si chiama project financing, vale per la Brebemi, per la Brescia, Bergamo, Milano, per la Pedemontana, per altre opere, poi c'è l'alta velocità sulla Milano-Venezia, adesso vado a memoria in maniera anche in ordine anche sparso. Avremo poi un approfondimento proprio sul ponte, perché una voce di Radio 24 che conoscete bene, quella di Giuseppe Cruciani, è anche la penna che ha scritto un libro dedicato proprio al ponte sullo stretto di Messina e alle grandi opere incompiute di questo paese, e vedremo di capire perché si ritiene, o alcuni ritengono, che il ponte sia un'opera strategica per la competitività di questo paese. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Sedicesimo calo oggi consecutivo per l'Euribor, il tasso interbancario a tre mesi è sceso all'1,76%, mentre, visto che ci chiedete già del petrolio, petrolio ha aperto in leggero rialzo a $44,7 il barile. Ancora, per quello che riguarda Piazza Affari, vedo che già scrivete, ma arriveremo anche a Piazza Affari. Ripeto, JP Morgan non solo ha negato, ma ha anche chiesto alla Consob di intervenire su queste voci, che definisce speculazioni di mercato. Noi non abbiamo mai pubblicato, ha detto oggi JP Morgan, un report sul debito italiano che scommetta sul possibile fallimento, sulla bancarotta, sul default dell'Italia, e non abbiamo un prodotto strutturato che implichi o indichi una visione negativa sul debito della Repubblica Italiana. Questo per contestare e smentire le voci di questo prodotto che si desiderebbe, addirittura c'era anche il nome, First to Default Basket, la prima a saltare nel paniere, tradotto in maniera un po' libera dall'inglese, un prodotto strutturato a tre anni secondo cui, in cui si sarebbe scommesso che il paese più a rischio di fallimento tra gli otto paesi, senza Grecia e Irlanda, dell'area euro sarebbe proprio l'Italia. Però, nel frattempo l'Irlanda oggi rischia di perdere il suo rating AAA da parte di Fitch, e come sempre le agenzie di rating si muovono forse un po' in ritardo, visto che ormai l'Irlanda è il caso assieme all'Europa dell'Est più attuale e più urgente quanto alla sostenibilità nell'Europa. Mentre sempre sul fronte della crisi, nel diario della crisi, UniCredit avrebbe deciso di azzerare il bonus ai circa 3.000 dipendenti della divisione Market e Investment Banking, quelli, insomma, le divisioni di investimento e markets delle banche sono quelle che hanno spesso imbarcato la stragrande maggioranza dei prodotti tossici. Lo scrive oggi, tra l'altro, proprio Sole 24 Ore. La decisione deriva dal fatto che tutta la divisione Markets Investment chiuderà il 2008 in perdita. Dalla Cina continuano ad arrivare invece segnali contrastanti. Non solo ieri Wen Jiabao all'apertura del congresso ha detto che non vi sarà un secondo piano di intervento per l'economia cinese, ma ha anche aggiunto oggi, sempre nel corso del congresso a Pechino, oggi in una conferenza stampa, il governatore della banca centrale cinese Zhou Xiaochan ha detto le politiche di sostegno dell'economia hanno ottenuto risultati significativi e la manovra varata a novembre, quella da 600 miliardi di dollari, sta avendo i suoi effetti, tant'è che il governatore dice che ci sono segni di ripresa in Cina. L'America, dicevamo, il mercato ha festeggiato una notizia brutta, ma non peggiore delle attese. Infatti a febbraio si sono persi in America 651.000 posti di lavoro, e fino ad adesso l'America andava avanti con un ritmo di 500.000 di posti di lavoro in meno al mese, adesso siamo già a 651.000. La disoccupazione in America sale all'8,1%, che è un livello altissimo, doppio rispetto quasi a quella italiana, comunque più alto della media europea. E a questo punto, da quando è iniziata la recessione, da quando è iniziata la crisi finanziaria, diciamo da dicembre 2007, i posti di lavoro persi negli Stati Uniti sono 4.400.000. Tant'è che il tasso di disoccupazione americano va così ai massimi da oltre 25 anni, mai così alto in 25 anni, e questo a dire che la crisi non sarà del 29, ma non è neanche del 97, qui si torna indietro rapidamente agli anni 70, ma dicevo, mai così male da 25 anni. E poco fa, intanto sta parlando adesso anche Barack Obama, vedo delle agenzie, ma poco fa ha parlato il consigliere economico della Casa Bianca, Christina Romer, ha detto: i dati sull'andamento della disoccupazione sono spaventosi, non è possibile trovarci qualcosa di buono in nessun modo. I top manager di General Motors sarebbero più aperti all'ipotesi di una bancarotta assistita dal governo per riorganizzare la società, quindi una bancarotta, un fallimento pilotato, come si chiamerebbe da noi. Lo scrive oggi Wall Street Journal, e secondo cui i top manager di General Motors avrebbero rivisto le posizioni anche alla luce dei sostanziali dubbi sulla continuità aziendale che ha avanzato la società di consulenza Deloitte Touche. Qualcuno se la ricorderà perché fu famosa nel caso di Parmalat, diciamo. Fece poca consulenza e si dimenticò di capire dove era finita Bonlat e Picurum. Vabbè, quella è un'altra storia, anche se in Parmalat c'era già in vitro tutta la crisi a cui stiamo assistendo adesso. Chiudiamo quindi con le notizie in breve, passiamo al primo tema: Consiglio dei Ministri di oggi e Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, detto anche CIPE. Partiamo dal Consiglio dei Ministri, dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Berlusconi e del Ministro dell'Economia Tremonti. Dunque, conferenza stampa. Berlusconi ha detto no all'assegno, la proposta avanzata da Franceschini, segretario del PD, l'assegno di disoccupazione sarebbe per le imprese, dare alle imprese la licenza di licenziare. Non voglio rispondere qui alle proposte dell'opposizione circa la garanzia per tutti coloro che perdono il posto di lavoro. Il sistema attuale è già un sistema che ci consente di intervenire, di modulare gli interventi e di farlo in maniera assolutamente opportuna, migliore di quella che non sarebbe certamente se adottassimo una misura come quella che è stata preconizzata, misura che sarebbe una licenza di licenziare, che abbiamo casi di imprenditori medi. Questa mattina abbiamo esaminato il caso di un'azienda che costruisce piastrelle. L'imprenditore, se ci fosse stata quella misura, avrebbe tranquillamente lasciato a casa 500 suoi lavoratori e chiuso l'azienda. Ma soprattutto i piccoli imprenditori, gli artigiani, questa misura sarebbe una licenza di licenziare, con magari accordi successivi con i lavoratori stessi, che godrebbero dell'indennità e continuerebbero a lavorare in nero. Quindi un incentivo a licenziare o un incentivo a situazioni di nero non ufficiali. Così Presidente del Consiglio. Per quello che riguarda invece sempre il tema degli ammortizzatori sociali, oggi il Consiglio dei Ministri ha stanziato 4 miliardi di euro per i cosiddetti ammortizzatori sociali. Si aggiungono i 4 miliardi di euro delle regioni al miliardo di euro della legge finanziaria. E poi l'appello ai lavoratori: siate sereni, l'ammortizzatore sociale in Italia si chiama soprattutto cassa integrazione guadagni, siate sereni, le risorse ci sono. Abbiamo deliberato e approvato un fondo per l'occupazione, cioè i fondi sociali per gli ammortizzatori sociali, di 4 miliardi di euro, 8 mila miliardi di vecchie lire, che si aggiunge al miliardo di euro che avevamo stanziato con la finanziaria, che si aggiunge ai 4 miliardi di euro stanziati in accordo con le regioni. Quindi per gli ammortizzatori sociali abbiamo a disposizione una somma di 9 miliardi di euro, 18 mila miliardi di vecchie lire, che noi riteniamo addirittura esuberante, ma abbiamo voluto essere cauti, prudenti, e quindi possiamo dire a tutti i lavoratori che temono di non avere la possibilità di continuare nel loro posto di lavoro, che gli ammortizzatori sociali ci sono e devono essere sereni. Così il Presidente del Consiglio, ho dimenticato di dare il numero per gli sms, avete ragione, 349-238-6666. E poi la parte che riguarda, diciamo, come la crisi viene raccontata in primo luogo dai media e quindi anche da noi. Berlusconi ha detto: è dannoso per l'interesse di tutti che i media continuino a rappresentare la crisi come qualcosa di tragico. È esagerato, perché la crisi è pesante ma non tragica. Poi continuato il Presidente del Consiglio: la crisi c'è ma viene drammatizzata dai media. E noi non è che chiudiamo gli occhi di fronte a una crisi che c'è, che viene vissuta sui media in maniera più drammatica di quanto non sia, perché quando anche si guarda alle borse che calano e alle azioni, ma se si guarda quante sono le azioni che sono state cambiate a certi prezzi, si vede che sono una manciata di azioni. Quindi praticamente chi ha le azioni e non ha l'esigenza di fare cassa immediatamente si tiene tranquillamente, più o meno tranquillamente, le azioni in cassaforte, come usa dirsi, nel cassetto, e aspetta che passi questa crisi. Naturalmente, se si continua a dare l'impressione che la crisi sia assolutamente tragica, beh, questo non può che spaventare le persone. Siccome io l'ho detto più volte, abbiamo paura soprattutto, e forse soltanto della paura, ci sono persone che cambiano i loro stili di vita, che è il pericolo più grande. Così il Presidente del Consiglio, appunto, se uno non ha bisogno di vendere, tiene le azioni in cassetto. Il problema che in questo momento noi osserviamo è non tanto sul fronte borsistico, immagino che pochissimi vogliano, se non obbligati, vendere in questo momento, è la tenuta dell'occupazione e il ricorso alla cassa integrazione e la diminuzione delle spese. Comunque, sempre su questo, è tornato anche il Ministro Tremonti, che dopo le dichiarazioni di ieri, che noi abbiamo fatto sentire, devo dire, in cui Tremonti diceva che il 2009 andrà peggio del 2008, Tremonti però ha contestato quanto ha letto su alcuni giornali che riportavano, venivano attribuite al Ministro le parole orribile e terribile come descrizione del 2009. Sentiamo Tremonti. Io ho letto su alcuni giornali, 3 o 4, la parola orribile e terribile il 2009. Io non ho mai usato quella parola e considero quel tipo di politica di disinformazione. Non è che fa opposizione al ministro o al governo, fa opposizione agli italiani. E poi la normalità, ha continuato il ministro dell'economia Tremonti, è il primo degli investimenti che tutti debbono fare. Occorre difendere se stessi dalla paura che si ha dentro. La continuità nella normalità della vita è il primo degli investimenti che tutti devono fare. È, come dice la sinistra, questo tipo di comunicazione irresponsabile o responsabile? Siccome è la stessa cosa che faceva Roosevelt, che non ci sembra fosse di destra o che non ci sembra fosse irresponsabile, è la prima cosa da fare, difendere se stessi dalla paura che c'hai dentro. Continuare come prima, tentare di continuare come prima è il migliore modo per ritornare a come eri prima, nei limiti in cui è possibile. Ma chi fa questa comunicazione non è un irresponsabile che fa finta che non c'è la crisi, è l'opposto, proprio perché sa che c'è la crisi, dà questo tipo di comunicazione. Sì, vedo anche molti messaggi sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio in merito al rischio che si cambino gli stili di vita. Immagino volesse dire che la crisi venga amplificata da una riduzione dei consumi, perché molti di voi scrivono: vabbè, ma uno può anche cambiare stile di vita, certo, può sprecare di meno, può comprare, può essere meno soggetto alle mode. Qui, se ho ben capito il ragionamento del Presidente del Consiglio, il timore è che un eccesso di pessimismo porti a far frenare i consumi e ad avere atteggiamenti ancora più prudenti di quanto necessario. E il ministro Tremonti invece ha definito la situazione dell'Italia attualmente difficile ma sotto controllo, ricordando come gli interventi del governo sono stati più ampi di quelli di altri paesi. questo sommando le cifre messe a disposizione dal governo italiano. Allora, si diceva, questa è la conferenza stampa del Consiglio dei Ministri. Oggi però anche questa mattina si è riunito il CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, per dare via libera ai fondi per le infrastrutture. C'è stata anche un po' di tensione prima del CIPE, perché si sono visti alcuni ministri e il confronto, stando a quanto riporta l'ANSA, sarebbe stato a tratti anche molto aspro. Ha coinvolto da una parte Giulio Tremonti e dall'altra parte diversi ministri, Scajola, Prestigiacomo, Gelmini, Bondi in particolare. Infatti il CIPE è iniziato un'ora e mezza in ritardo e nella parte finale vi ha partecipato anche a queste riunioni il Presidente del Consiglio Berlusconi. Qual era il motivo degli attriti? Beh, detto banalmente, le priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili. L'accordo generale le ha portate a 9 miliardi, sono scese a 9 miliardi di euro, ma da quello che si è capito la tensione più grossa si è verificata sulla attribuzione delle decisioni di spesa ai singoli ministeri. E vedremo poi se l'ANSA uscirà con altri chiarimenti. Da quello che citano fonti interne, il fatto che il ministro Tremonti voglia, come insomma ha già fatto anche nel passato, tenere in mano i cordoni della borsa e quindi non sulla distribuzione dei soldi ai singoli ministeri. Nella prima ipotesi, infatti, venivano indicate precise ripartizioni dei fondi ai ministeri, quindi quanti soldi verranno gestiti dalle attività produttive, quanti dai beni culturali, quanti dalla giustizia, ma a questa idea si sarebbe opposto il ministro dell'economia Giulio Tremonti, che invece vuole un approccio diverso, non l'attribuzione diretta, quindi la gestione diretta dei soldi, ma il ministero dell'economia che poi dà, a seconda delle richieste, delle compatibilità, a ogni ministero quanto può. Avrebbe alla fine mediato il Presidente del Consiglio Berlusconi, decidendo un fondo unico, un fondo strategico sotto la responsabilità di Palazzo Chigi, e poi, come ha spiegato nella conferenza stampa, un fondo strategico a sostegno dell'economia. I ministri, man mano che avranno pronti progetti di intervento immediatamente realizzabili, potranno poi rivolgersi alla Presidenza del Consiglio e discutere di questi progetti. ...17:34 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo aver ascoltato le parole della conferenza stampa da parte del Presidente del Consiglio Berlusconi e del Ministro dell'Economia Tremonti, il CIPE, i 17,6 miliardi, poi 16 in realtà quelli proprio stretti per le infrastrutture, altri sono per carceri e scuole, 1,2 miliardi, vado a memoria, come verranno utilizzati questi soldi e quanta parte di questi soldi saranno nostri e quanta invece dei privati, ce lo racconta questa scheda. Vale quasi 18 miliardi di euro il nuovo stanziamento per autostrade, ponti e ferrovie che il governo ha deciso di mettere in campo contro la crisi. Di questi fondi, 1,2 miliardi vengono destinati alla costruzione e ristrutturazione di scuole e carceri, mentre altri 16,6 miliardi finanzieranno opere infrastrutturali vere e proprie. A sborsare i soldi non sarà però solo lo Stato, anzi lo sforzo è diviso praticamente a metà tra pubblico e privati. In particolare i capitali privati serviranno per l'autostrada della Cisa, per la Brescia-Padova, la Cecina-Civitavecchia e infine per la tangenziale est di Milano. Degli 8,5 miliardi pubblici, una fetta importante andrà al ponte sullo stretto di Messina, per cui vengono stanziati 1,3 miliardi, circa un quinto del costo totale dell'opera, con la scommessa dell'apertura dei cantieri entro il 2010. Quasi 2 miliardi di euro finiranno invece alla Salerno-Reggio Calabria con l'obiettivo di completare una volta per tutte, entro il 2013, un'opera la cui costruzione è iniziata nel 1964. Restando nel Mezzogiorno, arrivano nuove risorse anche per l'ampliamento della statale ionica tra Taranto e Reggio Calabria. Spostandosi al nord, la lista delle opere che beneficeranno di nuovi fondi comprende l'autostrada Brebemi, la pedemontana Lecco-Bergamo e il tunnel del Frejus. 800 milioni di euro serviranno per il Mose di Venezia, mentre 2,7 miliardi vengono destinati ai collegamenti ferroviari, a cominciare dall'alta velocità Milano-Verona e dal terzo valico tra Milano e Genova. Infine, 1,5 miliardi di euro viene destinato al capitolo Expo. Soldi che non finiranno però solo a Milano, ma anche a diverse città italiane per il miglioramento della loro mobilità in vista dell'appuntamento 2015, come nel caso della linea C della metropolitana di Roma o in quello della rete metropolitana regionale campana. Queste le opere finanziate dal CIPE, per capire quali saranno subito cantierabili, lo chiede anche la Confindustria. Ora, è evidente a tutti, lo abbiamo detto molte volte, che nelle opere infrastrutturali ci sia un principio, se mi passa dal concetto, classicamente keynesiano. Se tu spendi, famosa Tennessee Valley Authority, spendi per le infrastrutture, per le grandi opere, tieni l'occupazione, crei PIL e consumi. Quindi rivolgo la domanda a Giorgio Santilli del Sole 24 Ore. Buonasera Giorgio, innanzitutto. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. E poi passeremo con Giuseppe Cruciani a parlare del ponte sullo stretto. Ma per il resto delle opere, di che tempi stiamo parlando, quanto a cantierabilità? Visto che la nostra scheda ricordava che in realtà diciamo metà più o meno sono a carico nostro, l'altra metà arriverà da privati. Lasciami sottolineare, Sebastiano, anzitutto un dato che rischia di non emergere dietro questa cifra che il governo sta usando di 16,6 miliardi da qualche mese. Cioè, oggi è successo un fatto particolarmente importante che va ascritto a merito del ministro Matteoli, direi, ma del governo complessivamente, che indica sicuramente una priorità. Cioè, sono stati trovati 5 miliardi di euro dai fondi FAS, diciamo i fondi per il Sud. Era un pezzo, diciamo, di finanziamento che ancora mancava. Quindi questo è il primo dato che mi sembra rilevante di oggi e completare quel quadro che dicevamo di oltre 16 miliardi. La cantierabilità. Il governo dà una valutazione ottimistica di cui bisogna prendere atto, cioè dice che tutte le opere sostanzialmente saranno cantierabili più o meno entro il 2009. Questa valutazione ottimistica va presa per quello che è, nel senso che è chiaro che dietro il governo c'è la spinta anche ai vari enti, alle ferrovie, all'ANAS e agli altri enti di spesa, ai concessionari, di accelerare al massimo le progettazioni, che sono poi il nodo che conduce queste opere al cantiere vero e proprio. C'è un altro aspetto che va tenuto in considerazione: buona parte di questi fondi non hanno in realtà una cassa dietro, la cassa la deve trovare, come si diceva prima, nei servizi il Ministro dell'Economia. Quindi questi due elementi, progetti ancora da completare, cassa ancora da trovare, in realtà fanno pensare che non sarà così semplice cantierare queste opere al 2009. Noi abbiamo fatto uno screening su alcuni di questi lavori, il ponte sullo stretto era già citato nel servizio precedente, prima del 2010, della fine del 2010, molto difficilmente si riuscirà ad aprire il cantiere vero e proprio del ponte. Si considera che sui miliardi circa di costo si potrà spendere forse 100 milioni. Stesso discorso vale per il terzo valico della Milano-Genova, dove l'opera sarà, diciamo così, spezzettata in modo da partire con una prima fase funzionale di 900 milioni di euro, ma questo potrà accadere soltanto all'inizio del 2010, perché lì c'è un problema di raccordo con il progetto dell'autostrada Brebemi che si intersecano, e il CIPE ha già detto che bisogna risolvere questi problemi di sovrapposizione. Quindi stesso discorso vale più o meno per la Treviglia-Brescia, che tuttavia ha un progetto, diciamo, già in stato avanzato, però tutti questi progetti poi devono arrivare alla fase esecutiva, cioè devono superare le varie valutazioni impatto ambientale, autorizzazioni in alcuni casi. Quindi difficilmente io credo che di questo ammontare di risorse stanziate oggi, almeno per la parte pubblica, che ammonta a circa 9 miliardi, si riusciranno ad aprire cantieri prima del 2010. Diverso è il discorso delle opere private a cui si faceva riferimento, perché quelle sono opere che il governo ascrive a proprio merito adesso, però in realtà sono opere che vanno avanti da un bel po', cioè si stanno progettando da almeno 3, 4, 5 anni e sono effettivamente a un punto per cui è presumibile che i cantieri possano aprire tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo anno. Ci dai qualche nome su queste ultime, quelle che sono già avviate da 3-4 anni, che quindi potrebbero aprire già alla fine di quest'anno, chiarito che le altre invece dovranno attendere, diciamo, ragionevolmente per la seconda metà del 2010, essere ottimisti? Beh, diciamo che la Brebemi, per esempio, che è la direttissima Brescia, Bergamo, Milano, dovrebbe ovviamente poter riuscire ad aprire i cantieri entro la fine, prima della fine dell'anno. È una delle opere, diciamo, in pole position per questo. La Pedemontana? La tangenziale est Milano, possiamo dire più o meno la stessa cosa. Per la Pedemontana è stato fatto un grosso lavoro di progettazione, di autorizzazione, ed effettivamente si può immaginare che ci sia un'accelerazione anche su quel versante lì. Grazie per la chiarezza, la sintesi e la precisione a Giorgio Santilli del Sole 24 Ore. Quindi, chiarito che le opere difficilmente saranno cantierabili prima della fine del 2010, i 9 miliardi su 18 complessivi, perché il CIP oggi ha dato via libera a 18 miliardi per infrastrutture, ma come avete sentito solo metà li mette lo Stato, l'altro li mettono i privati. Chiarito che invece la Brescia, Bergamo, Milano, la tangenziale est di Milano e anche la Pedemontana sono quelle in maggior stato d'avanzamento. Adesso parliamo del ponte sullo Stretto. Un rapidissimo aggiornamento di mercati, parleremo tra qualche minuto, tanto non vi preoccupate, non avete perso una giornata per investire. Ha perso il 4,6% S&P MIB, meno 3,9% MIBTEL, e come dice il Presidente del Consiglio, se uno non deve vendere, oggi stava a casa. La cosa preoccupante, andando sul serio, invece, è che gli altri mercati hanno perso molto molto meno. Io non capisco, ne parleremo più avanti, perché gli investitori internazionali stiano bastonando in questo modo l'Italia, perché Parigi ha perso l'1,3%, Francoforte lo 0,7%, Londra meno 0,3%, l'America perde mezzo punto, noi 4,5 punti, con casi come Unicredit meno 10,40%, Banco Popolare meno 8,70%, Ubibanca meno 8%, Intesa meno 7,5%. Ma ce n'è per tutti: Saipem meno 6,7%, Generali meno 5,90%, addirittura l'Eni meno 5,75%, e il petrolio resta più o meno a $44, e via così. L'unico anche Enel meno 4,50%, bene l'Automatica più 6,70%, Popolare di Milano più 3%, Italcementi più 2,6%, Prismian più 2,5%, Fastweb più 1,5%, Tenaris più 1,3%. Ponte, e Fiat leggermente positiva più 0,3%. Dicevamo quindi ponte sullo Stretto di Messina, 1 miliardo e 300 milioni oggi assegnati dal CIPE. Ne parliamo con una voce nota, immagino ai microfoni di Radio 24, Giuseppe Cruciani, ciao, ma anche eccoci perché qui. Andrà in onda dopo la fine di questo programma con un po' di ritardo, per questo punto lo spazio che ti stiamo offrendo lo recupereremo nello sforamento alle 18.30. Al di là delle battute, Giuseppe Cruciani conduce La Zanzara, questo lo sapete, ma è anche autore di un libro che si chiama Questo ponte sa da fare, lo Stretto di Messina e le opere incompiute che bloccano l'Italia. Casa editrice Rizzoli, come altri libri lo portiamo in trasmissione, ma trattiamo l'autore come tutti gli altri autori. Quindi ho qualche domanda per te, cercando di interpretare quelle che sono le obiezioni più classiche su questo ponte di Messina, e le vedo anche in molti ascoltatori. Prima domanda, intanto, quanto ci è costato finora? Perché tra progettazione, studi e quant'altro i soldi sono già stati spesi. Ora, la mia opinione è questa, c'è un dato di fatto e poi un'opinione innanzitutto. Il dato di fatto è che sono stati spesi, questi sono dati ufficiali forniti dalla società Stretto di Messina e mai confutati, circa 160 milioni di euro da quando esiste la società pubblica Stretto di Messina, cioè dall'inizio degli anni 80. Qualcuno può dire sono tanti perché non è partito ancora un cantiere, evidentemente, e però quanti, scusa, così? 160 milioni di euro. Uh-huh. E sono più o meno i soldi, più o meno i soldi che il governo, per esempio, ha dato, diciamo, a fondo perduto alla città di Catania per risollevarsi da una situazione finanziaria disastrosa in un colpo solo. Ora, siccome si parla sempre di carrozzone di Stato, io credo che 160 milioni di euro per un'opera di così grande importanza dall'82 in poi, spesi da noi, cioè soldi dei contribuenti, non siano in realtà una grande cifra, visto soprattutto in questo paese purtroppo no, e comunque stiamo parlando di 350 miliardi a spanne di vecchie lire su 10 anni. E comunque non è questa l'obiezione principale, perché tu puoi spendere 350 miliardi per fare un buon progetto in 10 anni. Vabbè. L'obiezione più forte che arriva sul ponte è il suo vantaggio reale, o cioè si dice, e abbiamo visto anche le proteste dei politici siciliani che hanno fatto la manifestazione Freccia Rotta qualche giorno fa. Freccia Rotta, ossia il fatto che ci vogliono per andare da Catania a Palermo in treno, uno parte alle 10.40 da Catania, arriva a Palermo alle 15.30, mancano solo gli indiani che assaltano i treni, i cowboy che rispondono con le pistole, siamo in pieno Far West. Allora, se ci si mettono quasi 5 ore, 4 ore e mezza a attraversare in treno la Sicilia da Catania a Palermo, non voglio immaginare le stazioni minori, quella dovrebbe essere un collegamento veloce, che senso ha risparmiare, spendere, che complessivamente verrà a costare sui 6-7 miliardi, questa cifra non l'abbiamo ancora detta, ma comunque 6 miliardi e 36 milioni secondo l'ultimo piano finanziario che poi va rivisto completamente. Ma ammettendo, tanto non sarà così, che non vengono ritoccate a rialzo, ma che senso ha spendere 6 miliardi per risparmiare 30 minuti quando poi ci metti 4 ore e passa a arrivare da Catania a Palermo? A questa obiezione si risponde in maniera molto semplice, è la classica obiezione benaltrista, cioè prima di fare il ponte bisogna rifare la Salerno-Reggio Calabria, rifare i trasporti del sud, le ferrovie, dunque come hai detto 5 ore, in alcuni casi anche 7 per arrivare da Palermo a Catania, cioè le due più grandi città della Sicilia, rifare le strade, ammodernare le autostrade del sud, eccetera, eccetera. Però è un'obiezione che si elimina da sola, prima perché chi fa questa obiezione, cioè i politici che fanno questa obiezione, anche politici del sud o politici che si sono occupati di queste cose e poi non hanno fatto poi nulla per cambiare la situazione. E poi il ponte potrebbe essere il volano appunto per creare una rete infrastrutturale degna di questo nome anche nel meridione d'Italia, in particolare l'alta velocità ferroviaria che Trenitalia certamente ancora non ha progettato per quello che riguarda il sud, può arrivare al sud oggettivamente solo col ponte, non si può immaginare che l'alta velocità ferroviaria arrivi a Reggio Calabria o Villa San Giovanni, si fermi, poi ci sono i traghetti e riparta verso Palermo. Allora, forse ho detto un territorio come lo stretto, vabbè, chiaramente un braccio di mare come lo stretto, mi perdonerete, ma la tua controobiezione è chiara, attenzione, finché si continua a usare il benaltrismo, i problemi sono ben altri, non si fa né il ponte né si fa il raddoppio della linea Catania-Palermo e la si mette a regime più veloce. Allora, sempre sul ponte, sullo Stretto di Messina, abbiate pazienza, sui mercati vedo gente che vuole sapere come ha chiuso la borsa, meno 4,6, tanto è una notizia, non è una notizia, ahimè. Poi avremo tutta la seconda mezz'ora del programma, o la seconda ora del programma, per parlarne. E ponte sullo Stretto di Messina, Giuseppe Cruciani, il benaltrismo l'ho capito, dice vabbè, intanto iniziamo a fare il ponte e poi può avere un effetto volano, è un'obiezione che ha una sua logica. Vorrei capire come su un'opera che costa 6 miliardi la mafia, che sappiamo avere una grossa capacità di penetrazione anche al nodo, figuriamoci lì, come la mafia non ci metta le mani, come non iniziano a saltare per aria le autocisterne, le autobotti che vengono a rifornire i cantieri, come si faccia a garantire che il cemento non verrà comprato dai soliti fornitori, magari di cattiva qualità o sovrappagato, e via discorrendo. Il problema principale non riguarda naturalmente l'opera in quanto tale, no? Perché l'opera in quanto tale non è penetrabile dalla mafia. Il problema, come dicevi tu, sono tutto quello che c'è intorno, i cantieri, il cemento, eccetera. Abbiamo esempi pessimi da questo punto di vista, gli appalti sulla Salerno-Reggio Calabria, gli appalti sulla statale ionica, ma il punto anche qui è molto semplice. Decidiamo o facciamo gli appalti, o progrediamo, o andiamo avanti, o costruiamo, oppure non costruiamo. Una volta uno scrittore, che non è certamente berlusconiano, ma favorevole al ponte, Andrea Camilleri, ha detto sul ponte non si può fare l'obiezione della mafia, perché come dire, i negozi non devono aprire per il pizzo, non apriamo nessun negozio per il pizzo. Andando più sul tecnico, alcuni magistrati molto in vista alla DIA, alla Direzione Investigativa Antimafia, dicono che il ponte è forse l'opera meno permeabile da questo punto di vista, perché primo è sotto i riflettori di tutti, sarà un'opera ultramonitorata su cui già ci sono miliardi di protocolli antimafia già scritti a suo tempo quando l'opera stava per prendere via alla fine del 2006. E poi, secondo Alberto Cisterna, che è un grande magistrato della DIA, addirittura potrebbe essere una grande trappola per i mafiosi, soprattutto per l'Andrangheta. Se cercassero di entrare, appunto, il grande monitoraggio intorno al ponte potrebbe in realtà rappresentare una tomba per alcune famiglie indranghetiste. Magari, se fosse così, basterebbe fare il ponte solo per averlo, per avere questo effetto. Temo purtroppo, però mi fa ben sperare il fatto che lo dicono magistrati e membri della DIA e non i nostri politici. Certo. Dico in senso lato, perché lì avrei molte più perplessità. Temo però che la situazione sia un po' più complicata. È vero, però, abbiamo avuto anche noi ospiti in questo programma, alcuni analisti che dicevano: attenzione, quando un'opera è così grande, paradossalmente è più difficile infiltrarsi rispetto a un appalto da 150 o 50 milioni che nessuno va a controllare, che non finisce sui giornali e lì se ne fanno strali in Sicilia. Ultima domanda, visto che avevo un insieme di obiezioni che spero essere quelle della maggior parte degli ascoltatori, quanto obiezioni, i soldi spesi o non spesi. Cosa è successo? Governo Berlusconi, ultimo governo Berlusconi, prima di questo, si decide di stanziare 1,3 miliardi, in parte la società Ponte sullo Stretto di Messina, arriva Prodi, dice no, è più importante la Ionica, altre cose, il ponte non è una priorità. Che è successo di quei 1,3 miliardi che gira un po' come le tre carte ormai da qualche annetto? Beh, la storia di questo 1,3 miliardi è incredibile, perché tutti dicono, in realtà quella di oggi non è una novità, è una restituzione di soldi che il ponte ha sempre avuto. Paradossalmente, tra le grandi opere berlusconiane, il ponte, quelle del 2001-2006, il ponte era quello che già aveva una cassa, 1,3 miliardi appunto, che oggi vengono ridati al ponte per farlo partire, perché già c'è già un appalto, come tutti sapete, già assegnato ad Impregilo. E cosa succede? Succede che Prodi dà questi soldi alle opere della Sicilia e della Calabria, opere cosiddette minori, che in realtà minori non sono, solo che per una questione di lentezza della burocrazia italiana, e poi perché il governo Prodi a un certo punto cade, questi soldi non sono mai arrivati. Tornano nella disponibilità del governo di centrodestra di Tremonti, il quale non li ridà subito al ponte, ma li utilizza per il taglio dell'ICI, in gran parte per il taglio dell'ICI. Naturalmente non bastavano solo non bastava solo 1,3 miliardi del ponte. A questo punto passa un anno e, per la spinta soprattutto di Berlusconi, perché Tremonti non è mai stato granché favorevole al ponte, questi soldi tornano finalmente nella disponibilità del ponte. Allora, un paio di spero di aver risposto alle obiezioni, perché sono obiezioni che ho anch'io, lo sapete, io non esprimo opinioni ma ho obiezioni, dubbi e critiche. Dunque, leggo un messaggio: Cruciani, Barisoni, vi state arrampicando sugli specchi, avete perso la vostra credibilità. Bah, ammesso di averla mai avuta la credibilità. Detto questo, resto scettico sulle priorità, resto scettico personalmente, così faccio anche un disclaimer, sul fatto che sia solo un problema di benaltrismo. Vorrei vedere Moretti e le Ferrovie dello Stato progettare un piano di investimenti al sud che dicesse: allora noi faremo entro il 2015 il raddoppio della Catania-Palermo. Ecco perché allora uno dice: vabbè, allora facciamo anche il ponte e non il rischio cattedrale nel deserto o fuga in avanti. Per cui su questo resto molto scettico. Sulla mafia ognuno può avere l'opinione che vuole, dico semplicemente: di tutto si può ragionare e noi di tutto ragioniamo in questo programma. Grazie Giuseppe Cruciani, che risentirete fra più o meno 35 minuti. Questo ponte sa da fare, lo Stretto di Messina e le opere incompiute che bloccano l'Italia. Rizzoli, hanno ragione alcuni ascoltatori che dicono: però se la situazione economica va avanti così, questo 1,3 miliardi tornerà a sparire, perché Tremonti lo rivorrà per motivi molto più urgenti, cassa integrazione. Allora rifaremo un'altra puntata, un altro libro e quant'altro. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Molti gli sms che sono arrivati sull'ultimo tema affrontato, quello a partire dal libro di Giuseppe Cruciani con l'autore. Questo ponte sa da fare, adesso parleremo di borsa. Dunque, alcuni dicono: beh, non abbiamo sentito la domanda fondamentale, a cosa serve il ponte? No, obiettivamente l'ho fatta anche a Giuseppe Cruciani, e resto della mia idea che finché non si velocizza la Catania-Palermo non ha senso fare un ponte che permetta un risparmio di 30 minuti. Giuseppe Cruciani la pensa in maniera molto diversa dal sottoscritto, e per questo l'abbiamo invitato, perché dice che in realtà con questa scusa non si fa né una cosa né l'altra, il cosiddetto benaltrismo. Ritengo comunque che le Ferrovie dello Stato su un progetto del genere dovrebbero dire a questo punto: bene, noi raddoppieremo la Catania-Palermo entro 2015, entro 2020, e quindi non ci si metterà più 4 ore e mezza, dalle 10:40 si parte a Catania e si arriva a Palermo alle 15:30, ma ci si arriverà ragionevolmente in un paio d'ore e un'ora e mezza, sarebbe ancora meglio. Ancora alcuni scrivono: Berlusconi ordina Focus Economia esegue. Bah, non so cosa voglia dire. Ieri abbiamo letto tutte le dichiarazioni del Presidente del Consiglio che, diciamo, tendeva a minimizzare fortemente, in alcuni casi anche negare la crisi, vi la siete presa, avete detto che abbiamo attaccato il governo, insomma, non siete mai contenti, alcuni di voi non sono mai contenti. Invece sentiamo, così non parliamo, usciamo un attimo dall'Italia e poi ci rientriamo rapidamente con la borsa, ma ascoltiamo la preoccupazione di Barack Obama, il quale oggi, nonostante i mercati abbiano apprezzato il dato sulla disoccupazione americana perché in linea con le attese, 600.000 posti di lavoro ha perso l'America, 651.000 solo a febbraio, la disoccupazione va all'8,1%, è la più grande, il tasso di disoccupazione più alta da 25 anni negli Stati Uniti, e da quando è iniziata la crisi, cioè diciamo da fine 2007, in America si sono già creati 4.400.000 disoccupati. Il mercato oggi di Dow Jones è invariato, ma era cautamente, timidamente ottimista, perché il dato in linea con le attese, non la pensa così l'amministrazione Obama. Ascoltiamo Barack Obama. There are still workers in Columbus. Ci sono ancora lavoratori qui a Columbus che stanno perdendo il lavoro. C'è ancora molto da fare qui in Ohio per poggiare le nuove fondamenta per crescita e prosperità. Ed è questo il compito che dobbiamo portare avanti nei prossimi mesi. Ecco perché la mia amministrazione si sta muovendo velocemente in modo aggressivo per ristabilire il flusso dei prestiti per le famiglie e le imprese, per aiutare i proprietari di casa a pagare i mutui. Per affrontare le grandi sfide del nostro tempo servono tempo e pazienza, servono grandi sforzi e cooperazione. Ma soprattutto serve un rinnovato senso di responsabilità da parte di tutti gli americani. Non ho alcun dubbio che usciremo da questa crisi più forti di prima e che terremo vivo il sogno di questa nazione per le future generazioni. E appunto, ha detto Barack Obama, le cifre sulla disoccupazione sono sbalorditive. Ora, lo dice lui, non lo diciamo noi, non stiamo facendo pessimismo, visto che adesso riascolteremo anche alcune dichiarazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi e del Ministro Tremonti, che dicono che i media alimentano, cavalcano troppo questa crisi. Barack Obama ha detto, le cifre sulla disoccupazione americana sono sbalorditive. E il consigliere economico della Casa Bianca, Christina Romer, ha detto i dati sulla disoccupazione americana sono spaventosi. Ora, non lo dico io, è un virgolettato, abbiate pazienza. Ancora sul ponte, sullo stretto, guardate che l'obiezione più forte forse è che se la situazione economica continua ad andare così, il 1,3 miliardi servirà al ministro Tremonti per fare altro di più urgente. Questa è forse la cosa più a breve. Ribadisco invece le tensioni all'interno del governo prima del CIPE, tensioni fra il ministro Tremonti e alcuni altri ministri, non solo Scajola, anche la Prestigiacomo e altri ministri, tensioni che poi si sono, diciamo, risolte con la presenza, c'erano infatti Scajola e Gelmini, Bondi e Prestigiacomo, si sono risolti con l'arrivo nel precipe dello stesso Presidente del Consiglio Berlusconi e con la soluzione di fare un fondo unico da 9 miliardi sotto la responsabilità di Palazzo Chigi, che distribuirà i soldi quando i ministeri proporranno i progetti. Le tensioni erano nate dal fatto che inizialmente sembrava che questi soldi, questi 9 miliardi, venissero attribuiti direttamente a ogni singolo ministero. Su questo il ministro dell'economia Tremonti si sarebbe opposto, avrebbe detto no, tengo io i cordoni, e allo scaturire delle tensioni si è trovata una soluzione con questo fondo unico, appunto, sotto la responsabilità di Palazzo Chigi. E allora, visto che le citavo, sentiamo anche il Presidente del Consiglio Berlusconi dire attenzione, i media esagerano, amplificano, cavalcano la crisi. Noi non è che chiudiamo gli occhi di fronte a una crisi che c'è, che viene vissuta sui media in maniera più drammatica di quanto non sia, perché quando anche si guarda alle borse che calano e alle azioni, ma se si guarda quante sono le azioni che sono state cambiate a certi prezzi, si vede che sono una manciata di azioni. Quindi praticamente chi ha le azioni e non ha l'esigenza di fare cassa immediatamente si tiene tranquillamente, più o meno tranquillamente, le azioni in cassaforte, come usa dirsi, nel cassetto, e aspetta che passi questa crisi. Naturalmente, se si continua a dare l'impressione che la crisi sia assolutamente tragica, beh, questo non può che spaventare le persone. Siccome io l'ho detto più volte, abbiamo paura soprattutto, e forse soltanto della paura, ci sono persone che cambiano i loro stili di vita, che è il pericolo più grande. E E allora abbiamo già commentato, avete commentato già la frase sugli stili di vita. Alcuni di voi ritengono che invece cambiare stile di vita sia doveroso, sia un'opportunità, sia anche un'occasione. Ognuno la vede come vuole, per fortuna. Ma veniamo alla borsa, perché il ragionamento del Presidente del Consiglio Berlusconi è quanto mai valido oggi. Io spero che, a meno che uno non fosse obbligato, un privato, non abbia venduto oggi, visto che Milano è riuscita a perdere quasi il 4% in più delle altre borse europee. Nel senso che Parigi perde l'1,4%, Francoforte lo 0,80%, Londra invariata, noi perdiamo il 4,6% sull'S&P MIB, il 3,90% sul MIBTEL. Allora voi chiedete, ma è la vicenda JP Morgan? JP Morgan ha negato, ha fatto un esposto alla Consob, ha negato di avere questo fondo che scommetteva su quale paese avrebbe fatto la fine dell'Argentina per primo, e chiaramente noi eravamo in testa, visto che non veniva presa in considerazione né l'Irlanda né la Grecia. Si sarebbe dovuto chiamare First to Default Basket, il paniere di chi esce per prima, di chi salta per primo, tradotto un po' così. JP Morgan ha negato oggi, la notizia invece era presente su molti giornali, e ha negato che esista un fondo strutturato che va a scommettere su quale paese che salta prima. Walter Riolfi oggi su Sole 24 Ore, vi consiglio l'articolo, spiegava come non si può parlare di General Motors, non si può parlare di BCE, di tutte cose già sapute. Diceva: attenzione, qui c'è una tendenza di grandi fondi e banche ed affari a generare vente doppie sull'Italia, perché vanno in qualche modo ad assicurare il loro portafoglio contro ulteriori discese del mercato, un livello anche quindi tecnico di analisi. Il titolo General Motors sta perdendo il 28% in America. General Motors, diciamola tutta, è fallita, è inutile continuare a giocare attorno alle parole, ed è al livello più basso dal 1934, 29 ci siamo quasi quasi per General Motors. Allora, si diceva Radio Core sulle 24 ore, puntata un po' particolare oggi, ma tanto insomma con la borsa che fa tutti i giorni meno 4,5, cosa volete? Si può anche ogni tanto farla zittare. C'era un bellissimo messaggio che forse adesso mi è scomparso dal terminale, di un ascoltatore che diceva, mi è scomparso, ah che belli quei tempi in cui, quando la borsa perdeva l'1%, si diceva forte calo, che nostalgia, un po' di amarcord per anni e periodi più normali. Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, la domanda: perché perdiamo quasi 4 punti in più rispetto al resto d'Europa ed è una settimana che continuiamo a perdere più di tutti? Allora, ci sono due letture che sono state date oggi. Una è quella di cui avete parlato anche voi prima, relativa a questa cosa di JP Morgan, che poi in realtà ha negato di aver mai avuto un prodotto di questo tipo. Comunque diciamo che c'è una maggiore attenzione al rischio paese dell'Italia. In questa fase il rischio paese dell'Italia è più alto di quello che non sia per gli altri maggiori paesi, e questo può, secondo alcuni, avere una qualche incidenza. Il secondo aspetto che gli analisti così ci invitavano oggi a considerare è anche il fatto che sull'S&P MIB il settore bancario e finanziario in Italia ha un peso molto maggiore rispetto a quello che ha negli altri paesi, perché se noi guardiamo ad esempio quello che hanno fatto le banche o le assicurazioni, ad esempio in Francia il Crédit Agricole ha perso il 7,70%, Aviva ha perso l'8,83% a Londra, quindi diciamo che è anche un po' la composizione del paniere che va a incidere sul fatto che in una fase in cui i bancari e i finanziari sono più penalizzati, il nostro listino perde ovviamente di più, perché ne ha di più al suo interno. Vabbè, sì, no, tutto può essere, però insomma ormai è una settimana che va avanti così. Invece a chi ci chiede capire, ripeto, Walter Riolfi l'abbiamo avuto molte volte ospite, dà una motivazione proprio di investimenti di fondi. Alcuni di voi ci chiedono di citare il titolo Eurotech. È vero, avete ragione, ci sono dei titoli che sono in controtendenza. Eurotech è un piccolo gioiello, abbiamo avuto, lo dico con la massima chiarezza, è una società fondata da degli imprenditori italiani che investe in nanotecnologie. Abbiamo avuto anche ospite il fondatore, se non ricordo male la sede è in Friuli, in provincia di Pordenone, non vorrei dire però l'inesattezza, e guadagna anche oggi il 3,9%, quindi andando sul mercato qualcosa si trova. Benetton guadagna il 5,7% oggi, Buzzi 11.375, però il problema è capire qual è la scommessa, Guido, che i fondi stanno facendo sulle nostre banche, perché insomma continuiamo a dire che non hanno prodotti tossici e l'abbiamo capito, è vero, a meno che non abbiano mentito, ma non ne hanno così tanti. Certo, hanno, come dice Penati, come ha scritto Penati, Alessandro Penati sul Sole 24 Ore, hanno dei goodwill, ossia delle operazioni di fusione, penso a Unicredito Capitalia, messe a libro a dei valori di prezzo, a valori di carico che ormai non esistono più, per cui dovranno correggere, rettificare, come si dice in gergo, e lì saranno dolori, perché se tu pensavi di avere 100 e ti ritrovi che quell'operazione invece vale 10, sono dolori. Però mi sfugge qualcosa, Unicredit è scesa a 72 centesimi di euro, quota ampiamente sotto i mezzi propri, meno 10,4, Banco Popolare meno 8,7, Ubibanca meno 8%, Intesa meno 7,40, Saipem meno 6,70, Generali meno 5,90, Eni meno 5,70, Alleanza meno 5,1, Unipol meno 4,9, Mediolanum meno 4,6, Mediobanca pure, e anche il Monte dei Paschi è nel meno 4,5, Mediaset meno 4,2, come Seat, pagine gialle, e Telecom meno 3,4. Ora, trovare un senso in questa storia che un senso non ha, parafrasando, se non ricordo male, Vasco Rossi, sarebbe la cosa migliore in questo commento, Guido. Sì, il problema è che in questa fase, anche come ti dicevo prima, c'è anche un'incertezza sulle ragioni che stanno portando a questi cali pesanti, a questi cali più marcati rispetto agli altri paesi. Le ragioni che ci segnalavano erano un po' quelle possono essere le spiegazioni. È chiaro che in questa fase, insomma, è difficile, è anche vero che se noi guardiamo proprio il settore bancario, il settore finanziario, non è che nel resto d'Europa viva momenti migliori, anche nel resto d'Europa i titoli stanno perdendo il 5, il 7, l'8% all'incirca come stanno perdendo in Italia. Ad esempio anche per andare a vedere, tipo il DJ Stocks di settore bancario europeo perde all'incirca il 4%, è un segno che comunque in questa fase l'incertezza sul settore bancario c'è. Bisognerà anche capire come le banche utilizzeranno i Tremonti Bond negli studi che abbiamo visto. Sì, ho capito, però se avanti così 10 miliardi di Tremonti Bond rischiano di essere molto pochi, purtroppo, perché bisogna capire fino a che livello. Lo studio di Penati, lo dico per inciso, citava, come aveva fatto un test sulla tenuta, 130 miliardi per ricapitalizzare le prime quattro, Monte dei Paschi, Unicredito, Banco Popolare, Intesa, San Paolo, per cui insomma vediamo di capire quale sia il livello. Non lo chiedo a te chiaramente, Guido, se no faremo un altro lavoro, ma insomma su cosa scommette il mercato oggettivamente mi sfugge. Scrivete giustamente, Eurotech è in provincia di Udine, ho sbagliato, ed è stata fondata da un gruppo di imprenditori, soci, private equity, poi quotatisi in borsa, capeggiati dal numero uno che è Siagri. Così ogni tanto citiamo anche qualche gioiellino di casa nostra, e vi assicuro che non ho nessun conflitto di interesse con le nanotecnologie, non le uso. Bene, Buzzi Unicem, in pregiro Italcementi, effetto CIPE, 18 miliardi stanziati? Sì, oltretutto sono stati anche 1,2 miliardi in più rispetto a quello che erano le attese, si attendevano 16,6 miliardi, alla fine sono stati 17,8 miliardi, hanno trovato oltre un miliardo in più per andare a finanziare interventi nell'edilizia scolastica e carceraria, insomma credo il terzo giorno che tutto il comparto sta guadagnando. Italcementi in particolare ha guadagnato il 2,57 e in pregiro sul finale in realtà ha chiuso sostanzialmente piatta a meno 0,06%. Boh, leggo alcuni messaggi, insomma, dico attenzione, nel weekend arriveranno le offerte ostili. Boh, non lo so, a parte che non siamo pregiudizialmente contrari alle OPA ostili. Magari torna un po' sul titolo, non lo so, se uno ha i soldi per comprarsi un Unicredito o Banco Popolare o Intesa, li mettesse sul piatto. Certo che costa poco un Unicredito che un anno e mezzo fa valeva 6 euro, adesso vale 72 centesimi. Bisogna capire se c'è qualcuno che vuole comprarla. Tra i titoli che vanno male oggi anche gli energetici, mi sai spiegare perché se il petrolio resta a 43-44, Eni perde il 5,75% e scende a 12,3 euro per azione? Ma in realtà non c'è una ragione specifica, come lo diceva, come tu citavi prima il pezzo di Walter Riolfi oggi e segnalava questo, come ad esempio gli energetici italiani in questi ultime sedute siano scesi molto di più rispetto ai loro competitor internazionali senza in realtà una vera e propria ragione. Appunto Eni ha perso il 5,75%, anche Enel ha perso il 4,49%. In realtà è un momento in cui è difficile trovare spiegazioni su questi cali. Effetto General Motors su Fiat: General Motors sta perdendo il 30%, secondo me è tutto teorico, tanto è già fallita, però l'effetto sugli automobilistici europei c'è stato? L'effetto sugli automobilistici le case automobilistiche europee c'è stato fino a un certo punto, ad esempio Fiat comunque è stato uno dei pochi titoli a chiudere ancora in modo positivo, perché ha guadagnato appunto lo 0,25%. Oggi l'unico dato di una qualche importanza era quello sui veicoli commerciali, anche qui è stato diciamo un altro mese difficile, anche se gli automobilisti, titoli dell'auto, stanno iniziando a vedere prospettive meno cupe, perché con gli ecoincentivi eccetera almeno gli ordini stanno iniziando ad aumentare, ad esempio Fiat, pur registrando in linea con il mercato un calo sui veicoli commerciali attorno al 40%, 38%, comunque vedeva in prospettiva a febbraio gli ordini salire soprattutto di prodotti come ad esempio i veicoli commerciali a metano, che sfruttano maggiormente gli ecoincentivi. Questo può essere un motivo che guiderà in qualche modo i titoli del settore auto nei prossimi giorni. Allora rispondo invece io a una domanda degli ascoltatori: citate il caso di Mediaset, tutti i titoli hanno perso, il mercato l'anno scorso ha fatto un meno 40, devo dire però che oggettivamente tra una Mediaset che valeva un anno e mezzo fa circa 7 euro per azione, adesso vale molto meno, vale 4,2 euro, ma Unicredito, Intesa valevano, Unicredito 6 euro, Intesa ha perso un 60-70% anche lei, cioè vi è una differenza tra i meno 30, meno 40 che hanno molti titoli e i meno 70, meno 80 che hanno i grandi gruppi bancari, questo è innegabile, poi tutto va o quasi tutto va male. Grazie a Guido Maurino, e allora nell'attesa di vedere che cosa succederà lunedì, tanto per cambiare, l'America, vi do l'aggiornamento, meno 0,4%, il Dow Jones meno 0,5%, lo Standard & Poor's. Da Sebastiano Barisoni un ringraziamento a Valeria Bradi in regia e l'assistenza invece in redazione e l'aiuto a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno. Buon fine settimana a tutti voi, ci risentiamo lunedì.